selele, Nagoya selele, tuma. Nagoya selele, Nagoya selele, oh. Nagoya selele, tuma. Nagoya selele, tuma. Nagoya selele, Nagoya selele, tuma. Nagoya selele. Yeah, I said it.